futuro estremamente incerto, perché la politica unilateralista dell'amministrazione americana sta ponendo l'ONU sotto assedio, e quella che dovrebbe essere la principale organizzazione impegnata ad affrontare i grandi problemi dell'umanità in realtà è sempre più esclusa da tutti i veri processi decisionali. Per invertire questa tendenza e per ridare un futuro alle Nazioni Unite deve scendere in campo la società civile mondiale con idee e proposte, ma anche con una vera e propria mobilitazione che da Padova ci auguriamo di avviare. L'incontro di Padova sarà una grande occasione per più di 100 organizzazioni della società civile mondiale per mettere a punto un piano d'azione. Ecco, questo è il momento in cui, dopo grandi mobilitazioni contro la globalizzazione e contro la guerra, forse dobbiamo iniziare a una grande mobilitazione per la pace, per la democrazia internazionale e per salvare questa ONU di cui abbiamo tanto bisogno. L'Italia purtroppo continua ad avere una politica sbagliata, una politica carica di contraddizioni. Da un lato il nostro Presidente del Consiglio chiede agli alleati di aiutarlo a preservare un posto dell'Italia nelle Nazioni Unite, nel Consiglio di Sicurezza, e dall'altra, proprio in questi stessi giorni, lo stesso governo taglia tutti i finanziamenti ai programmi delle Nazioni Unite per lottare contro la fame, la povertà nel mondo, per salvare l'ambiente nel nostro pianeta. E nei mesi scorsi ha consentito alla chiusura dell'ufficio dell'ONU in Italia, che ha sempre svolto un ruolo straordinariamente importante nel rafforzamento delle relazioni tra il nostro paese e quell'organizzazione. Insomma, si parla di ONU, ma si fa di tutto per ridurne la sua funzione, per smantellarlo.